Continua la protesta dei pastori sardi per il crollo del prezzo del latte che, come sappiamo, ne abbiamo parlato anche in questi giorni, oramai non copre nemmeno più i costi di produzione. Un tema che ci spinge a una riflessione, perché sono fenomeni questi, soprattutto nell'agroindustria, abbastanza frequenti. Campi Aperti ha espresso solidarietà ai pastori sardi. Noi siamo in collegamento telefonico con Pierpaolo Lanzarini, che saluto. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Prima cosa ti volevo chiedere perché la vostra associazione si sente vicina alla protesta dei pastori sardi. Ma per tutto quello che abbiamo portato in città in questi 15 anni, 16 anni di vita dell'associazione. Noi sosteniamo un modello agricolo che è assolutamente alternativo a quello dell'agroindustria, proprio per i motivi che stanno in questo momento guidando, questa motivando, giustificando, spingendo, sostenendo questa protesta. Cioè, noi abbiamo di fronte un'agroindustria, una grande distribuzione che è forte, di una forza contrattuale enorme, sta di fatto mortificando e schiacciando l'agricoltura, quella reale del paese. Abbiamo di fronte un obiettivo comune a quello dei pastori sardi: riportare in mano ai produttori un minimo di potere contrattuale in modo da poter invertire questo fenomeno che sta portando allo spopolamento della campagna, alla chiusura delle aziende agricole e alla concentrazione della produzione nella mano di pochissimi. E voi, come Campi Aperti, fate spesso riflessioni anche sulla politica dei prezzi. Volevo capire con te, nell'agroindustria, dove sta il problema? Perché siccome il prezzo che arriva ai consumatori, diciamo, non è propriamente spesso, insomma, economico, dove si perdono tutte queste risorse? Chi è che ci guadagna? Visto che non ci guadagnano i produttori, i contadini, è evidente, perché questo è quello che sta succedendo ed è adesso portato sotto gli occhi di tutti da questo movimento sardo che si sta scatenando, giustamente, per un trattamento assolutamente iniquo. Non ci guadagnano i consumatori, che alla fine non hanno dei prezzi bassi al consumo, tutto il resto in mezzo probabilmente ha, come dire, gioco a guadagnarci. Poi dipende un po' dalle situazioni: ci sono grosse catene della grande distribuzione che la fanno da padrone rispetto a una gran parte di aziende agroindustriali, e mentre ci sono grossi marchi dell'agroindustria che possono stabilire loro il prezzo anche di vendita alla grande distribuzione, perché sono marchi dei quali non si può fare a meno sullo scaffale del supermercato. Quindi il giochino sta lì in mezzo, ecco. Prima ci sono i grossisti e dopo ci sono i distributori, ma insomma siamo lì, ecco, questo sta tutto lì in mezzo, e chi ci guadagna sono loro. Perdere, in realtà, poi ci perdiamo poi tutti, perché anche loro ci perdono in qualche maniera, perché viviamo tutti sullo stesso pianeta. Questo gioco qua sta portando alla devastazione delle matrici ambientali, del clima, eccetera, perché tutte le conseguenze di questa cosa sono poi a carico di un aumento di produttività giocato sulla chimica, giocato sugli input energetici, e questo è quello che stiamo vedendo negli ultimi anni, e con tutti gli allarmi che si susseguono è un po' anche, anzi molto, è giocato su queste, è motivato e giustificato e spinto da questi squilibri, ecco. Possiamo dire che i meccanismi che stanno emergendo adesso, appunto, con la questione del latte ovino dei pastori sardi, sono simili a quelli che generano poi il caporalato, lo sfruttamento per quanto riguarda ad esempio le arance? Sì, si può dire. Poi dopo è chiaro che ogni singola produzione ha poi le sue caratteristiche, le sue specificità, però la logica è sempre quella, che l'onere di ridurre i costi è appoggiato sulla produzione ed è scaricato sulla produzione, quindi i produttori devono ridurre i costi di produzione. Questo è, appunto, si porta dietro grandi meccanizzazioni, come dicevo prima, input chimici e artificiali di sintesi nei terreni, e si porta dietro spesso e volentieri uno sfruttamento anche della mano d'opera. In molti casi è un autosfruttamento, perché poi anche i produttori si autosfruttano per stare dentro ai prezzi che vengono imposti, però anche chiaramente a catena poi sui dipendenti, con tutti quei fenomeni che si diceva prima di caporalato e di sfruttamento della mano d'opera, insomma. Quindi questo è sicuramente strettamente legato a questa dinamica dei prezzi. Tu prima dicevi che come Campi Aperti avete cercato di mettere in piedi un modello completamente diverso da quello dell'agroindustria, quindi ti chiedo: la soluzione a questi problemi passa passa attraverso l'accorciamento delle filiere? Sicuramente quello è un modello, è una delle possibili risposte, probabilmente non sarà l'unica da dare e sicuramente qui la politica deve intervenire, deve fissare almeno in una fase di transizione delle regole diverse. Noi abbiamo, per esempio, uno degli altri grossi problemi è che tutta la politica sull'igiene pubblica, diciamo così, delle trasformazioni alimentari ha giocato a sfavore dell'accorciamento delle filiere. Gli investimenti resi necessari da una normativa iper fissata su alcune questioni di igiene, che poi in realtà non hanno nessun risvolto sull'igiene se non un aggravio dei costi per chi vuole mettere in piedi un laboratorio, di fatto hanno chiuso la porta a tutti quelli che volevano fare trasformazione e che avevano sempre fatto storicamente trasformazione, per cui parliamo del latte di pecora, fare il pecorino in Sardegna credo che fosse l'attività quotidiana di tutti i pastori. È diventato più pericoloso dei laboratori di costruzione della bomba atomica, per dire, per cui quella cosa lì di fatto ha spostato potere nelle mani dell'agroindustria, perché loro solo possono trasformare, permettersi gli investimenti necessari per mettere in piedi caseifici, virgolette, a norma, eccetera. Questa cosa è complice di questo fenomeno che si sta verificando adesso e forse bisogna rimettere mano anche a questo e pensare a un allentamento, ovviamente, che non toglie niente all'igienicità dei prodotti, non toglie niente alla sicurezza alimentare, anzi delle due aumenta, anche rispetto a questo tema dell'igiene che è stato portato a livelli di allarme inutili, quando poi invece si vede che la maggior parte dei casi di tossinfezione alimentare derivano poi dall'agroindustria e non dalle trasformazioni fatte dai piccoli produttori. Questo è un altro elemento, quindi ci vuole un mix di azioni, bisogna cominciare a togliere spazio anche alla grande distribuzione organizzata, bisognerà cominciare a porre un limite, diciamo così, anche allo strapotere urbanistico che ha la grande distribuzione. Noi viviamo a Bologna, sappiamo qual è la penetrazione che ormai la grande distribuzione ha operato all'interno del tessuto cittadino, anche questo è un problema di generazione di traffico, di consumi energetici, cioè tutto questa cosa. Bisognerà cominciare a ripensare anche gli strumenti urbanistici di cui ci siamo dotati, perché questo è un altro problema. Allora si dà spazio al supermercato nuovo, si fa fatica a trovare una piazza per fare un mercato contadino, bisognerà anche lavorare su questa cosa qua. Sì, sarà un approccio quindi insomma organico che serve, no? Necessariamente sì, direi. Anche perché il problema ormai è diventato di dimensioni tali che non c'è una risposta, no, se mai ci fosse stata una risposta semplice sola, adesso non c'è più, non è nei nostri. Bisogna lavorare sulla cultura del consumatore, bisogna lavorare sull'intelligenza degli amministratori, bisogna lavorare sul piano normativo, bisogna lavorare, cioè tutte queste cose qua bisogna che concorrano a ridefinire un modello che attualmente ci sta portando nel baratro in tutti i sensi, dal punto di vista sociale, economico, ambientale. Siamo veramente in una crisi che si preannuncia di proporzioni disastrose. Prima ci mettiamo mano e prima cominciamo a invertire la rotta, meglio è. Io ti ringrazio. Prego, grazie a voi e buona giornata. Altrettanto, ciao. Ciao, ciao.